Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Dicono che sia impensabile parlare di una diminuzione delle tasse in questo momento. Bene, allora parliamo di un aumento delle tasse. Ho letto la notizia dell'invenzione di una nuova tassa su DVD, chiavette e memorie di massa, a titolo di anticipo per compensare i mancati diritti d'autore che la SIAE non percepisce quando qualcuno fa una copia di opere audiovisive protette dalla legge sul diritto d'autore. A parte l'ingiustizia di colpire tutti i consumatori indiscriminatamente alla fonte, e se uno usa quegli strumenti per salvare files o documenti personali? Quello che stupisce e indigna è la misura. 30 euro su memorie di massa con una capienza superiore a 250 GB, che oggi sul mercato costano 50-100 euro. 50 centesimi su un DVD riscrivibile che oggi costa 1 euro, 1,50 euro. Stiamo parlando di una tassa che rischia di arrivare al 60%. Nelle tasse, imposte e persino multe, dai 50 euro del divieto di sosta ai 500 euro perché uno getta la sigaretta per terra, qualche volta si può anche sorvolare sul fatto se siano giuste oppure no, ma non di certo se il loro importo è abnorme. Luca. Caro Luca, non solo sono d'accordo con lei, ma mi permetto di aggiungere che la tassa prevista dal decreto Bondi sulle memorie informatiche è particolarmente negativa perché si configura come una tassa sull'innovazione. E proprio in questo momento, se c'è un elemento che non ha bisogno di ulteriori freni, limiti o oneri, è proprio l'innovazione. Così come non ha bisogno di nuove tasse un sistema economico che avrebbe invece bisogno di nuovo ossigeno, di nuove risorse, di nuove possibilità operative. Invece ci ritroviamo con un sistema fiscale che rischia di colpire a più livelli. Per la stessa funzione si paga una tassa quando si acquista un apparecchio, si paga una tassa quando ci si collega a un operatore, si paga un'altra tassa quando si acquista un servizio. Con la tassa sulla memoria informatica siamo peraltro al paradosso di imporre un'imposta non sulla realtà ma sulla possibilità. Perché nella maggior parte dei casi le memorie sono usate solo in piccola parte e spesso non sono nemmeno tra le caratteristiche principali dell'apparecchio, come il caso dei telefoni cellulari. E poi, scusatemi, non può che mettere in allarme il fatto che cominci a imporre le tasse anche il Ministero della Cultura. Ma vi pare possibile che si possa rivalutare un politico come Craxi che ha permesso il raddoppio del debito pubblico in pochi anni? La sfrontatezza è incredibile. Provate a immaginare un idraulico che viene a farvi un lavoro in casa, si fa pagare quanto pattuito e poi vi accorgete che si è servito abbondantemente da solo, prelevando quanto gli pareva direttamente dal vostro portafoglio. Quando gli viene chiesto di giustificare l'incredibile sopruso, ma direi più propriamente reato, dice di aver fatto un ottimo lavoro e che ha dovuto sostenere molte spese e che è prassi consolidata far così e quindi non è il caso di scandalizzarsi. Ma nel caso dell'idraulico si potrebbe ipotizzare un nostro comportamento incauto per aver lasciato incustodito il portafoglio, mentre Craxi e Accoliti, i nostri soldi, li avevano in mano per legge e nessuno di noi poteva impedir loro di approfittarsene, salvo la magistratura, che era proprio lì per tenerli d'occhio e non per distruggere partiti, a meno che non si fossero trasformati in associazioni a delinquere. Maurizio. Spettabile Radio 24. Sono un semplice cittadino e volevo dire la mia riguardo le varie discussioni su Craxi. Per prima cosa, all'epoca della sua permanenza al governo, certamente tutti i politici del tempo hanno preso dei soldi come lui. Perché allora il sistema era quello. Mangia che ti faccio mangiare e tutti si adeguavano. Allora perché deve passare solo lui da delinquente? Solo perché se n'era andato? Degli altri, chi ha pagato? E tutti i processi che fine hanno fatto? Chi ha restituito i soldi presi all'epoca? Nessuno. Allora perché infierire sull'onorevole Craxi solo perché ha avuto la colpa di essersene andato dall'Italia ed essersi mangiato da solo i soldi presi, mentre gli altri li hanno divisi con i loro compagni? Io penso che se fosse rimasto in Italia, ora verrebbe ossequiato e riverito come si è sempre fatto con gli altri politici del tempo. Se in Italia c'è stato uno statista serio, certamente questo era l'onorevole Craxi, l'unico politico con degli ideali seri. Allora perché descriverlo come il peggior delinquente? Quindi se un sindaco di Milano o di un'altra città italiana decide di intitolare una strada o una piazza, ben venga. E spero che non si continui a infierire contro di lui e contro chi cerca in qualche modo di ricordarlo come si è fatto fino ad ora. Domenico, Messina. Gentile direttore, scrivo per esprimere un mio parere favorevole all'idea di far uscire i figli di casa a 18 anni. Visto che sono grandi per divertirsi e per tornare alle 5 del mattino, sono grandi anche per affrontare la vita. Certo, la legge deve essere modificata e migliorata, offrendo loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Io sono uscito di casa a 20 anni, oggi ne ho 35. Ho una famiglia, ho fatto il mutuo per una casa e molti miei coetanei, con la scusa della scuola, a 30 anni vivono ancora con i genitori, in attesa della prima occupazione. Vincenzo. Caro direttore, premetto che quanto da me scritto voglio che sia mandato in onda anonimamente, anche se la mia volontà sarebbe di gridare a gran voce il mio nome e cognome. Ma visto come in Italia, purtroppo, si sta perseguendo in tutti i modi i più meschini chi non la pensa come una certa parte politica, io ho veramente paura di esprimere pubblicamente il mio nome e le mie idee, perché non sarei in grado di sostenere, sia economicamente che moralmente, delle rivalse. Santoro fa gli auguri a Spatuzza dicendo consapevolmente di sapere che è una provocazione. In merito a questo fatto, poiché noi sappiamo benissimo che una certa parte malavitosa parla in codici e pizzini, io mi pongo questa domanda, credo lecita. Come avranno recepito questi auguri il destinatario o forse i destinatari degli auguri? Com'è possibile accettare certe provocazioni? Io spero di cuore di vaneggiare, ma la coscienza mi porta a ribellarmi quando penso a tutte le vittime. Bambini trucidati, individui ridotti a larve umane, famiglie distrutte, perché alcuni malavitosi con la loro vigliaccheria e disumana ferocia si sentono i padroni del destino altrui. Allora mi chiedo e le chiedo, non sarebbe il caso di chiudere con certi esempi e sentirsi complici se si condividono certi auguri? O ci sensibilizziamo soltanto quando si viene a sapere che un bambino è stato sciolto nell'acido? Io invito tutti gli italiani a boicottare certe trasmissioni e quando vedo gente giovane che manifesta contro la mafia, giovani che esultano, ballando, alla cattura dei latitanti ma poi appoggiano chi dà gli auguri provocatori a un mafioso, la mia moralità mi impone di ribellarmi con tutte le forze. Lettera firmata. Vi ho sentiti auspicare il ritorno della polizia negli stadi. Io, da tifoso da stadio, spero proprio che non ritornino quei tempi. Non sono un ultra né un facinoroso, ma un semplice tifoso. E credo comunque che la presenza della polizia negli stadi crei tensione. È un dato di fatto, piaccia o no. Si parla degli ultra come se fossimo ancora negli anni Ottanta, ma il movimento ultra è praticamente morto. Le curve sono vuote, le trasferte di massa non esistono più, gli scontri tra tifoserie sono, per fortuna, una rarità. È vero, ci sono dei colpi di coda, ma appunto trattasi di colpi di coda. Gli stadi non sono vuoti per colpa degli ultra, altrimenti come spiegare gli stadi stracolmi di gente negli anni 70 e 80 quando andare allo stadio era davvero rischioso? Non servono leggi speciali, servono leggi sportive severe. Esplodono petardi a ripetizione? Bene, si squalifichi il settore. Lo stesso vale per i cori razzisti. Molti dicono che gli ultra non sono tifosi. Io credo invece che lo siano. Degenerati, ma pur sempre tifosi. Amano lo stadio, amano andarci. Chiudere la curva li fa star male, ma a furia di chiuderla smetteranno di fare certe cose. Faccio un esempio. Nella partita Cagliari-Livorno c'è stato un accenno di bu nei confronti di Rivas e di Niz. Bene, questa volta l'altoparlante ha immediatamente avvertito che al successivo coro ci sarebbe stata la sospensione della partita. Da quel momento non si è più sentita volare una mosca. Marco. I veri problemi del nostro paese sono l'enorme spesa pubblica, spesso soldi mal spesi, e la necessità delle riforme, specialmente in materia fiscale, per ridurre l'evasione. Ma in un paese dove ciascuno di noi rimane saldamente legato ai suoi piccoli o grandi privilegi, credete sia possibile fare queste riforme? Le riforme che veramente innovano devono essere condivise da tutta la società civile e non mi sembra che in Italia ciò si stia verificando. Gualtiero. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.